il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il prato pubblico. È questo il tema di cui si è parlato qualche settimana fa alle giornate del paesaggio organizzate dalla Fondazione Benetton di Treviso. Il tema ci è piaciuto molto e abbiamo voluto saperne di più. Con noi c'è oggi Simonetta Zanon, responsabile di progetti e ricerche sul paesaggio della Fondazione stessa e coordinatore di redazione della rivista Architettura del Paesaggio. Dottoressa Zanon, cosa sono questi prati common, questi prati comuni di cui avete parlato nelle giornate di studio? I prati, i nuovi prati, sono degli elementi delle nostre città che ci ha consegnato la storia delle città in Europa ha visto sempre la presenza in situazioni di prima periferia di grandi spazi aperti, non recintati, non progettati, non monumentali, non rappresentativi, ma sempre utilizzati per fiere, mercati, situazioni di massa che in tutte le città si presentavano. Ecco, molto spesso spazi di questo tipo sono rimasti pressoché inalterati, naturalmente trovandosi oggi in una condizione completamente diversa, generalmente inglobati dallo sviluppo di una città molto più grande. Dentro a questa famiglia dei prati e dei nuovi prati sviluppati in questo modo ci piace aggiungere oggi anche tutte quelle situazioni di aree e di lotti che si sono resi disponibili magari per l'abbandono di alcune attività produttive, attività industriali, che lasciano quindi spazi che hanno esattamente le stesse caratteristiche: il non essere progettati, l'essere pianeggianti, vuoti, disponibili a varie attività legate oggi principalmente allo svago, al tempo libero dei cittadini. Ci sono degli esempi di questi nuovi spazi, di questi nuovi prati che sono stati in qualche modo, di cui si sono i cittadini riappropriati in qualche modo, magari anche in Italia o all'estero? Allora, esempi di queste situazioni ce ne sono in Italia, però purtroppo in Italia non ci sono, almeno noi non ne siamo a conoscenza, tante iniziative in atto, perché un po' la mentalità non è ancora in grado di favorirle. Guardiamo allora all'estero agli esempi che possono darci, essere anche dei modelli per noi. L'esempio più interessante a mio avviso è quello dell'ex aeroporto Tempelhof di Berlino. Un grandissimo prato che nella storia della città ha visto un uso militare per le parate militari, per le manifestazioni, è diventato aeroporto, l'aeroporto del nazismo, di Hitler, l'aeroporto del ponte aereo, però è sempre rimasto nei secoli luogo dei picnic, e non appena l'aeroporto ha cessato la propria attività è ritornato ad essere questo. I picnic si sono accompagnati a tutte le varie attività che i cittadini svolgono, e la cosa interessante è che si è da subito innescata una collaborazione tra le associazioni di cittadini e il comune, che rende possibile la coesistenza di molte attività che naturalmente sono lì in attesa che poi possa accadere qualcos'altro. Loro si sposteranno, non stanno infrastrutturando in nessun modo lo spazio se non con delle attrezzature leggere necessarie appunto a attività legate essenzialmente al tempo libero e alla cultura. Quindi qui c'è anche una questione di costi. Da noi spesso, quando si pensa al parco, quindi non al prato, il prato all'interno di un parco è un parco che è una cosa costosa, spesso i comuni ci pensano due volte perché poi bisogna mantenerli questi parchi. Invece, ragionando in termini di prato, si possono anche pensare di avere degli spazi con costi minori. Assolutamente, intanto questo tipo di spazi comuni, diciamo, non richiede il tipo di progetto di un parco pubblico nel senso tradizionale, quindi molte meno attrezzature, molte meno piantagioni. Il prato può diventare proprio un elemento dell'architettura del paesaggio interessante dal punto di vista dei costi bassi anche di manutenzione, con risultati che invece possono essere straordinari anche dal punto di vista estetico. Abituare anche ha un diverso linguaggio compositivo nel rapporto con l'elemento vegetale, quindi parliamo di prati che sono costituiti principalmente da specie spontanee, che magari sono anche frutto dell'abbandono, che casualmente può dar luogo a combinazioni fantastiche di vegetazione, ai prati come luogo di accoglienza anche della diversità botanica che può presentare elementi di grande interesse. Noi dicevamo che li avevamo anche per cultura questi prati, nelle nostre città c'erano questi che si chiamano prati, che in realtà erano più che dei prati, dei campi, delle zone di periferia dove si svolgevano fiere, non so, manifestazioni, giostre, giochi vari, e questi ancora si riconoscono nei toponimi, per esempio Prato della Valle a Padova, ma anche il Prato della Fiera a Treviso. Questi che fine hanno fatto in Italia? Hanno fatto fini molto diverse, proprio i due esempi che ha citato sono emblematici. Prato della Valle nel Settecento è stato trasformato in un bellissimo giardino pubblico, estremamente disegnato, volendo dire carico di infrastrutture, monumentale, rappresentativo, e questo è uno dei destini possibili di questi prati delle città, quindi diventare un vero e proprio giardino pubblico. Un altro destino è quello di continuare questa vita un po' marginale, un po' sonnecchiosa, un po' indeterminata, che è il caso di Prato della Fiera di Treviso, che si è conservato con il suo borgo di case intorno che lo delimita come un grandissimo spiazzo, direi vuoto, e questo è il suo valore essenziale che tutti i cittadini vogliono in qualche modo mantenere. Però purtroppo attualmente poi viene usato come un parcheggio, perché proprio questa situazione di collocazione abbastanza strategica nel disegno della città lo rende appetibile da questo punto di vista. È un parcheggio anch'esso informale, non disegnato, diciamo, da coerente con l'idea del prato, però lì sarebbe interessante che i cittadini potessero avere la possibilità di usarlo diversamente, come comunque già succede in occasione del weekend, quando le macchine non invadono completamente l'area. Poi non si parla naturalmente di eliminare il parcheggio, ma magari di concentrarlo in alcune zone, liberandone altre a questi usi. È bello forse citare che quest'estate, anche a seguito di un lavoro che avevamo fatto su quell'area di workshop, è stata organizzata dai cittadini una cena, una sera, senza chiedere permessi, senza fare niente, era tutto mobile, e quindi le macchine non c'erano perché la sera vanno via, e 50 persone hanno fatto una bella tavolata e quindi hanno ricostituito proprio l'idea del prato come luogo comune accessibile a tutti. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. E Dio che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori. Per quanto finto il sottoscritto, sai di avere vinto solo quando ho estinto il mutuo dei suoi genitori. E con un coinquilino condivido la mia stanza. Quello che si dice, convivere con l'ansia. Dalla cameretta al camerino, tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera e sentirsi felice anche sola. Quante macchine veloci compriamo in leasing che non ci danno le emozioni della prima bici. Quanti hotel con la piscina e la palestra, doccia per moderna, poi non capisci l'acqua calda e l'acqua fredda. Quando scende la fattanza, crisi di coscienza, vuoi distruggere la stanza, Breaking Bad and Breakfast. Quanta fatica per salire in cima, per poi scoprire che c'è poco ossigeno e non si respira. Per riempire buchi, riscattare amori mai compiuti, ci nutriamo dei mi piace degli sconosciuti. Con milioni di canzoni streaming si torna ad ascoltare sempre quelle che si amavano da ragazzini. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera e sentirsi felice anche sola ad immaginare quelle piccole cose che non hai ancora. Sentirsi talmente persi, forse non ci fa attenzione, mi rifugio nei miei versi, ma è solo un'altra distrazione. Sentirsi talmente persi, forse non ci fa attenzione, quelle piccole cose che non hai ancora. Che non hai ancora. Che non hai ancora. Perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, e sentirsi felice anche solo ad immaginare quelle piccole cose che non hai ancora. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di prati pubblici, un tema di cui si è parlato qualche settimana fa alle giornate del paesaggio organizzate dalla Fondazione Benetton di Treviso. Ne stiamo parlando con la dottoressa Simonetta Zan. Mi piaceva l'idea di flessibilità di cui avete, di questi spazi di cui avete anche parlato nelle giornate, cioè c'è l'esigenza oggi anche da parte dei cittadini, per esempio, di avere degli spazi dove coltivare, quindi nascono queste esperienze di orti urbani che in genere sono molto regolamentate, o anche spazi appunto dove poter fare il picnic, la passeggiata, andare a correre, e ci sono spazi invece che in particolar modo anche oggi, dove la complice la crisi ha liberato spazi, zone che dovevano essere edificate non lo sono, o altre aree che sono disponibili ma possono esserlo temporaneamente. So che ci sono degli esempi di spazi che utilizzati temporaneamente sapendo che poi si potrebbero spostare le attività che si vengono a fare in altri luoghi. Anche questo è uno degli elementi, diciamo, interessanti da considerare quando si parla di architettura del paesaggio e degli spazi pubblici. È sempre più frequente la situazione che lei descrive, perché le attività produttive aprono, chiudono, si spostano, alcune di queste diventano obsolete, quindi non ci si immagina a breve un futuro. La riconversione di questi spazi a volte non è semplice, nel senso che fa parte magari di progetti urbanistici ambiziosi e che hanno bisogno di molti anni, per cui il risultato è che esistono dentro le città o molto vicino alle città una serie di spazi provvisoriamente liberi in attesa di un destino futuro. Ecco, quindi abituarsi a pensare, come avviene peraltro in quasi tutte le città europee ormai, ci sono tantissimi collettivi di progettazione che vivono proprio occupando con attività che non portano a trasformazioni pesanti le aree e che possono innescare un certo tipo di uso da parte delle comunità, che un domani può anche spostarsi da un'altra parte perché l'area non sarà più disponibile, ma nel frattempo lo sarà un'altra. L'uso degli orti, ecco, anche di nuovo la Germania ci insegna. In questo senso è uno degli usi possibili, c'è questo esempio sempre a Berlino nel quartiere Kreuzberg, quindi in una posizione molto centrale, molto appetibile, l'orto urbano Prinzessinnengarten, fondato dall'associazione Verde Nomade, che vive esattamente questa condizione di transitorietà e però al tempo stesso ha instaurato anche una certa stabilità, nel senso che esiste da 5 anni, comprende un ristorante, comprende una rivendita, un punto bar, e però tutte le coltivazioni avvengono in modo da poter essere facilmente eventualmente spostate. Perché? Perché sono all'interno di grandi sacchi di juta o di cassoni, quindi tutte attrezzature mobili, che permettono anche il doppio vantaggio di sapere che quello che è coltivato viene coltivato su terra buona, fertile, non sulla terra del sottofondo di queste aree industriali dismesse, che naturalmente presentano un carico di inquinanti che non sempre è compatibile con l'uso agricolo. Ultima domanda, i prati americani che sono diversi rispetto alla nostra idea di prato? I prati americani sono un tratto fondamentale dell'abitazione americana, di quella che così ci hanno raccontato i film degli anni 50 e degli anni 60. Sappiamo tutti che la vita del cittadino americano si svolge nella villetta del sobborgo oppure nel grattacielo di Manhattan, ma sono molto meno questi. La maggior parte delle persone abita la propria casetta individuale con il prato davanti che è un po', cioè è assolutamente personale, è curato. Ogni sabato mattina l'americano si alza presto per tagliare l'erba e per curare il prato, però al tempo stesso è per tutti, è davanti alla casa, spesso non è recintato, spesso non è nascosto da siepi e da alberi come facciamo noi, permette proprio lo scambio continuo tra vicini di casa, tra i passanti, si chiacchiera. E l'idea del prato americano è un'idea che deriva direttamente dal modo di occupazione del territorio, da come si è arrivati a costruire le città americane, un percorso completamente diverso dal nostro, di grande interesse, che presenta tuttavia, come tutti i processi, oggi anche qualche problema. Principalmente sono situazioni che richiedono tantissima acqua, che richiedono l'uso di diserbanti massiccio, e quindi sarebbe interessante che l'idea del prato americano, tutti gli elementi positivi che ha, potessero però rivedere un attimo il senso del verde, verdissimo, che non è l'unica caratteristica che possono avere, qualche fiore in più e qualche inquinante in meno. Nonna. Ci dobbiamo fermare qui, grazie alla dottoressa Zanon e grazie agli ascoltatori di averci seguito. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. All'appuntamento la prossima settimana. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.